Path Beyond Ego, The Transpersonal Vision. È un libro curato da Roger Walsh e Francis Vaughan e penso sia uno dei libri più importanti che abbia mai letto. È una decina d'anni che possiedo, anche di più, una quindicina d'anni che possiedo questo libro e lo sto riscoprendo in questi giorni e in particolare vorrei dedicarmi oggi a mostrarvi un articolo scritto dagli autori, dai curatori di questo libro, Meditation, Royal Road to the Transpersonal. Ok, in questo testo noi scopriremo delle cose veramente essenziali per quanto riguarda il lavoro di counseling. Normalmente il counseling non viene avvicinato al discorso transpersonale, ma io credo invece che la natura del counseling porti direttamente lì. E in questo video, in aggiunta ai video già pubblicati, cercherò di spiegare il perché. Allora, già detto in quei video che Carl Rogers ha compiuto una delle rivoluzioni più grandi del XX secolo, cioè ha compiuto il passaggio da una psicologia non umanistica a una psicologia umanistica, tant'è vero che la psicologia rogersiana si chiama umanistica, per distinguersi da quella che umanistica non è. Qual è la differenza tra umanistica e non umanistica? Quella non umanistica ritiene che per comprendere l'essere umano bisogna rifarsi delle teorie, che queste teorie dovranno essere accurate nella spiegazione di come funziona un essere umano in astratto, teorie quindi astratte, e allora poi il terapeuta avrà come compito di prendere il paziente, incasellarlo, quindi diventa un caso dentro la teoria, e poi utilizzare le tecniche e le procedure più appropriate in base alla stessa teoria. Quindi, secondo Rogers, questo tipo di psicoterapia, psicanalisi era di questo tipo allora, la psicanalisi è molto cambiata oggi, psicanalisi era di questo tipo allora, faceva parte, secondo Rogers, di terapie non ispirate a principi umanistici, in cui l'accentratura era sulla teoria e sul terapeuta. Con Rogers l'accentratura avviene sul cliente. Il cliente è il focus del lavoro terapeutico, del lavoro di cura, che Rogers chiama adesso, in questo momento, da quel momento, counseling. Non terapia. Counseling ha un significato ben diverso da terapia. La terapia si rivolge alle zone, diciamo così, patologiche della persona, cercando di trasformarle. Quindi il compito di una terapia importante è quello di ristrutturare la personalità, così come si ristruttura una casa. Non la si butta giù, ma la si ristruttura, la si fa nuova, gli si fanno le fondamenta. Il lavoro iniziato da Rogers è completamente diverso, perché Rogers lavora invece come focus non tanto sulla patologia che va inquadrata, incasellata dentro una teoria, ma lavora sulla parte sana, sulle risorse della persona. Infatti uno dei primi principi della psicoterapia del lavoro umanistico è: le persone hanno dentro di loro tutte le risorse, tutte le risorse necessarie a risolvere i loro problemi. E come mai? Com'è possibile? Perché le risorse di cui la persona ha bisogno sono che cosa? Esattamente le qualità umane, cioè che sono tipiche della nostra specie, le doti umane, se vogliamo dire in altro modo, o se vogliamo parlare in termini di psicologia buddista, le qualità dell'essere, che sono qualità dell'essere umani, appunto, e si possono anche dire le qualità dell'amore. Allora, il focus non è più alla patologia, ai meccanismi di difesa, all'emozione, alla negazione, quanto alle qualità umane, alle doti umane, le qualità dell'essere, le qualità dell'amore. E questo a partire da chi? Dal counselor. il quale ha come compito proprio quello di sviluppare che cosa? Le qualità umane. Ma queste qualità umane ce le ha in comune con chi? Con tutti gli uomini. E allora qual è la differenza tra un cancro e un essere umano normale? L'essere umano normale non è detto che si sia dedicato a sviluppare le qualità dell'essere. Il cancro ha come compito professionale quello. Questo significa lavoro umanistico, cioè centrato sull'umanità dell'uomo. Ma capite che questa è un'evoluzione perché presuppone un tipo di visione dell'uomo che non è una visione pessimistica, cioè l'uomo che, per esempio, Freud a un certo punto parla di istinto di morte, cioè in pratica parla di istinto alla distruttività. No. La psicologia umanistica ritiene che l'uomo non ha un istinto di morte, non ha un istinto alla distruttività, ma che di fronte ad ostacoli che incontra nella vita, effettivamente può mettere in atto, ovviamente, dei comportamenti distruttivi. Faccio un esempio per tutti: l'aggressività, intesa come comportamento aggressivo e violento, non è qualcosa che è originario nell'uomo, un istinto che deve usare, è semplicemente l'aggressività. Per la psicoterapia, per la psicologia umanistica, è una conseguenza del che la persona si è esposta a contesti ostili. Allora l'aggressività non è qualcosa di innato, qualcosa che ci dobbiamo sempre aspettare, è qualcosa che è a disposizione ovviamente dell'uomo quando deve difendersi, come a disposizione degli animali, ma non è che l'uomo ha due istinti fondamentali, il sesso e l'aggressività, come diceva Freud, semplicemente l'uomo è dotato di qualità umane che possono fiorire se i contesti sono favorevoli, e invece se i contesti sono ostili, queste qualità umane non fioriscono e quindi fioriscono, anzi vengono su qualità assai spinose, che sono gli inquinanti della mente, come dice il buddismo, tutte quelle cose che appannano una mente lucida, una mente pulita e in grado di vedere la realtà. Allora, per la psicologia umanistica, la cosa fondamentale qual è? È questa, quella di creare un contesto di opportunità, dove due persone si incontrano, uno e due, uno fa al compito professionale di aiutare l'altro, l'altro si fa aiutare, uno lo chiamiamo counselor e l'altro cliente. E il counselor qual è il contributo che porta in questo setting? Porta le qualità tipicamente umane. E quali sono queste qualità umane? Ve l'ho detto, qualità dell'essere, conosciamo tutti, l'empatia, il non giudizio, la valorizzazione, la stima incondizionata, la benevolenza. La presenza mentale, l'attenzione, la cura, e l'elenco è lungo, sono tutte le qualità dell'amore, il calore. Beh, Rogers ne ha individuate all'inizio fondamentalmente tre, appunto, l'empatia, la stima incondizionata, cioè il non giudizio, nei nostri termini, ma anche nei suoi, e poi la genuinità, cioè la congruenza, cioè essere se stessi, che vuol dire non essere che cosa? Non presentare una maschera, che può essere la maschera di un ruolo professionale. Allora, un contesto in cui il counselor, colui che si prende cura, garantisce la presenza di questi elementi di catalizzazione, di che cosa? Di una relazione sana. Nel buddismo troviamo che questi segnali, questi elementi della relazione umana sana ci sono dove? Specificamente, andiamo a sentire cosa ci dice il Dalai Lama nella relazione madre-bambino. Relazione madre-bambino, la madre buona offre al bambino tutte queste condizioni qua. E quindi infatti cosa fa nei confronti del bambino? Crea un contesto di sicurezza. dove il bambino sa di poter appartenere e in cui si sente a casa sua, in cui viene visto, riconosciuto, compreso, capito e così via. Compreso e capito in che cosa? Fondamentalmente nei suoi bisogni fondamentali e quindi nelle sue emozioni, nei suoi sentimenti. Questa relazione madre-bambino è un aspetto paradigmatico di un ottimo rapporto, un rapporto anche tra adulti, in cui naturalmente uno non fa da mamma all'altro, ma ha determinate qualità. Queste qualità di una buona madre, che poi sono appunto, oltre a queste, la compassione, la cura, la dedizione, sono le stesse qualità che servono in una relazione tra adulti perché la relazione funzioni bene. Ora, se gli esseri umani praticassero queste qualità, anziché gli inquinanti che sono la permalosità, l'ostilità, che sono l'aggressività, la diffidenza, la sfiducia, tutte queste cose qui, beh, gli esseri umani non avrebbero bisogno di cura psicologica, guarirebbero. E quindi, in fondo, molto semplicemente, Rogers ha fatto una rivoluzione grandiosa perché ha detto quelle cose che erano sotto gli occhi di tutti, ce l'abbiamo davanti tutti, ce l'abbiamo. Sono le cose più importanti, veramente. Mentre in generale, se ne andiamo a vedere gli studi tradizionali di psicologia, non è che a queste cose si dà una grande importanza, non è che trovate dei trattati sulla gratitudine, sulla generosità, sulla dedizione, ci trovate relativamente poco, invece trovate una marea di lavori clinici sui sistemi di difesa, cioè su tutto ciò che negli esseri umani non funziona e come non funziona. Infatti, una delle caratteristiche fondamentali, no, della nostra psicologia occidentale descritti in questo libro Path Beyond Ego è questa, che la nostra psicologia in che cosa si è specializzata? Fondamentalmente in due linee, nella clinica studiando le persone malate con problemi seri anche e nei laboratori, quindi la psicologia sperimentale. Entrambe queste due psicologie non sono psicologia umanistica in questo senso, perché la clinica non studia le qualità umane, ma studia le condizioni in cui queste qualità mancano. Quindi studia le mancanze, non ha studiato le qualità, cioè la cura, quello che veramente serve. La psicologia sperimentale non si occupa della soggettività, va a studiare delle variabili molto limitate. Queste due origini della psicologia occidentale ne hanno segnato in gran parte la configurazione, che potremmo dire che è una configurazione che Edith Stein ha definito una psicologia senza anima. E cosa significa senza anima? In termini della mistica, anima ha un significato molto ampio. Si distingue nell'anima, il fondo dell'anima e l'anima vera e propria. L'anima per la mistica corrisponde all'ego, l'anima così come la intendiamo qui invece è il cosiddetto fondo dell'anima, che potremmo anche dire la vera anima umana, perché l'ego è una costruzione dovuta in gran parte a contesti di ostilità dove le persone vivono e vivono perché le culture umane si sono soprattutto selezionate e hanno avuto la precedenza quelle più aggressive e quelle più violente, quelle più guerrafondaie, quelle in cui le armi erano più potenti. E naturalmente questo a livello psicologico genera un'esaltazione dell'ego, non del fondo dell'anima e delle qualità dell'essere. Questo è il punto centrale. Allora, da questo punto di vista partiremo per considerare questo articolo di cui fra poco vi parlerò.